Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Dicembre ormai alle porte, inizia domani, tanti italiani si preparano a ricevere la tredicesima. Una boccata d'aria dopo questi mesi così duri, un incentivo per le spese in vista delle feste natalizie. Difficile, almeno stando ai dati diffusi nei giorni scorsi da alcune associazioni dei consumatori. Per la prima volta da 20 anni la cifra complessiva destinata alla tredicesima diminuisce invece che aumentare, un calo del 2,2% corrispondente a circa 800 milioni di euro, questo almeno quanto hanno calcolato Adusbef e Federconsumatori in uno studio del quale dopo vi racconteremo i dettagli. Oltre a questo è rilevante il fatto che solo il 20% della tredicesima verrà dedicata alle spese per i regali, un viaggetto, pasti ricchi in famiglia in occasione appunto soprattutto delle giornate centrali di festa o semplicemente a risparmio. L'80% della gratifica di fine anno verrà infatti usato per, possiamo proprio dire così, tappare i buchi e gli affanni dell'ordinaria amministrazione, la rata del mutuo, le tasse, le bollette sempre più care. Cosa faranno quindi gli italiani con la loro tredicesima? Come si comporteranno? Come vi comporterete durante questo mese di dicembre? Quello che cerchiamo di capire oggi e che chiediamo anche a voi che ci ascoltate, raccontatecelo all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi ricordo che da qualche giorno anche noi ci siamo arrivati tardi, ma ci siamo arrivati, siamo su Facebook e se volete potete interagire con noi anche attraverso il social network. Fanno riflettere anche i dati che abbiamo colto da un altro osservatorio, quello di prestiti.it, dati che ci dicono che il 34% degli italiani chiederà addirittura un prestito per le spese natalizie. Un motivo in più per sottolineare l'importanza del risparmio, che passa anche dall'attenzione alle offerte e alle modalità più intelligenti per usare i soldi che gli italiani si ritrovano nel portafoglio, ahimè, mese dopo mese sempre più leggero. E questo lo indica anche l'ultima rilevazione dell'Istat, che oggi occupa molte pagine di tutti i giornali, potere d'acquisto sempre più ridotto, il divario fra i prezzi che continuano a crescere, l'inflazione appunto è al 3-4% nel nostro paese e i salari invece che nell'ultima rilevazione sono cresciuti solo dell'1,7% in media, appunto è una forbice che si allarga sempre di più. Allora, chi c'è con noi questa mattina? Andrea Polo, direttore della comunicazione di prestiti.it, perché questo osservatorio lo vogliamo conoscere in lungo e in largo per capire perché cosa chiederanno i prestiti in Natale le famiglie italiane. Andrea, ciao, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie mille, buongiorno a voi. Saluto un altro collega, Enrico Cinotti, vice capo servizio del Salvagente, che è un settimanale dedicato alle tendenze del consumerismo, a tutte le problematiche. Lo abbiamo interpellato perché proprio domani con il Salvagente, gli amici appunto di questo settimanale escono con una guida al risparmio di 36 pagine indicando le offerte migliori su luce, gas, telefonia, mutui, spese per il bebè e quant'altro, quindi una guida che ci serve quanto mai utile, che ci sembra quanto mai utile proprio in questo periodo in cui la tredicesima probabilmente dovrà essere proprio dedicata anche a coprire queste spese. Enrico, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio, bentornato anzi. Grazie. Non senti con la cuffia, Andrea? Pochissimo, allora adesso te la alziamo, non ti preoccupare, dobbiamo solo cercare il cursore giusto, fai intanto un po' di prove. Saluto e ringrazio anche Francesco Avallone, vicepresidente di Federconsumatori, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo già dato tutte le indicazioni per poter intervenire in diretta e per raccontarci che cosa farete a Natale, soprattutto che orientamento darete alla vostra tredicesima. Naturalmente ci potete anche raccontare se avete un momento di difficoltà, Salva Danaio è il posto giusto per raccogliere queste testimonianze. Noi con grande rispetto raccoglieremo appunto le vostre situazioni e le commenteremo insieme. Prima la borsa, anche questa è un altro tormento dell'ultimo periodo, non solo quella della spesa, non solo quella appunto delle famiglie italiane, anche dal punto di vista del mercato finanziario. La continuiamo a monitorare molto attentamente. Oggi sembrano migliori le notizie che arrivano dai destini del vecchio continente, che probabilmente guardano con speranza ai risultati che potranno essere raggiunti dai vertici in corso a Bruxelles. Abbiamo un rialzo di Milano che è di circa un punto percentuale adesso. Le borse europee erano partite negative stamattina, quindi hanno completamente capovolto la loro giornata. Parigi più 0,8%, Francoforte più 1,35%, Londra più 0,22%, si rafforza anche l'euro sul dollaro a 1,33,19. Naturalmente, dicevamo, sotto osservazione le indicazioni che arrivano da Bruxelles, con tutte le discussioni che ci sono per ampliare per esempio le risorse del fondo salva stati, acquistare titoli pubblici nei mercati primario o secondario a seconda delle condizioni di necessità dei paesi dell'eurozona. Sono queste appunto tra l'altro tra le principali decisioni prese ieri sera dall'Eurogruppo. I ministri si sono accordati anche per esaminare rapidamente l'aumento delle risorse del Fondo Monetario Internazionale attraverso prestiti bilaterali. A parte questo, ci sono anche dei dati economici stamattina che sono stati diffusi, sono stati positivi, ha ripreso a crescere molto bene l'India, e siccome questi paesi emergenti hanno rappresentato per le economie occidentali un ammortizzatore molto importante in questi ultimi anni di crisi, ci fa piacere che arrivi anche questa notizia, anche se sembra dall'altra parte, dall'altro capo del mondo. In Germania sono aumentate le vendite al dettaglio. Anche la Germania la guardiamo perché ci fa piacere che continui ad essere la locomotiva d'Europa, speriamo che lo sia anche politicamente, che sia in grado la signora Merkel di guidare con responsabilità la crisi attuale con iniziative appunto che possa continuare ad appoggiare, non continuamente a respingerle. Poi dagli Stati Uniti oggi arrivano molti dati, c'è il Beige Book della Federal Reserve, il rapporto periodico della Banca Centrale Americana, ci sono i dati sulle richieste di nuovi mutui, alcuni dati che anticiperanno appunto le statistiche sull'andamento dell'occupazione. Abbiamo venerdì il rapporto sulla disoccupazione americana, oggi arrivano delle stime preliminari dell'agenzia ADP, tanti altri dati, insomma giornata da monitorare attentamente. Lo spread, eccolo qua, la solita parolaccia del giorno, fra il BTP e il Bund è leggermente al di sotto dei 500 punti base. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, tredicesime più magre, come le useremo? Abbiamo la scheda d'apertura oggi, abbiamo solamente scelto per un duplice motivo la canzone degli UM, Last Christmas, anche per fare gli auguri a George Michael, che anche se sembra questo un microfono abbastanza particolare dal quale rivolgergli gli auguri di pronta guarigione, però ne siamo molto appassionati di questo cantante che ha una brutta polmonite, tra l'altro ricoverato in un ospedale austriaco, ci dispiace per noi che abbiamo visto il concerto di Milano, per cui. Allora, detto questo, ritorniamo un po' al nostro Natale che arriverà fra 26 giorni. Dicembre alle porte, lo dicevamo all'inizio, gli italiani riceveranno in molti appunto la tredicesima, tutti quelli che ovviamente ne hanno diritto. Come la spenderanno quest'anno? Adusbef e Federconsumatori hanno calcolato che intanto le tredicesime saranno in calo per la prima volta da 20 anni. Interpello subito Francesco Avallone, vicepresidente di questa grande organizzazione dei consumatori che è Federconsumatori. Come avete fatto a fare questa stima? Avallone, ci dica. E poi avete calcolato anche un'altra cosa importante, che a causa della progressiva caduta del potere d'acquisto, ogni famiglia a reddito fisso quest'anno rinuncerà all'equivalente della spesa alimentare di un mese. Perché? Sì, intanto il calo del monte salari che arriva con le tredicesime ha molti motivi per cui calcolare diciamo così la riduzione, perché ci sono molte casse integrazioni, ci sono licenziamenti, ci sono lavoratori che purtroppo non percepiscono strumenti e quindi non sono messi nel monte tredicesime. E purtroppo a questo si aggiunge l'aumento dei costi e quindi prestiti, ratei, canone RAI, mutui casa, bolli auto, bollette, utenze, quindi tutto ciò che purtroppo incide in maniera superiore a quella che nel 2010 abbiamo avuto. Ecco, questi due fenomeni portano a questi risultati e quindi purtroppo abbiamo questa riduzione dal 2010 al 2009, che è una riduzione ancora più forte dal 2010 al 2011, e quindi abbiamo un meno 2,23% di incasso delle tredicesime. E oltre al fatto che queste saranno in calo, a Vallone naturalmente dovrà essere anche monitorato attentamente il destino della tredicesima, sì, di quest'anno. Sì. Ecco, verrà facciamo un piccolissimo calcolo, prendendo diciamo, a riferimento naturalmente un dato medio di un lavoratore che guadagna 1.500 euro al mese. Questi soldi saranno così distribuiti: 1.133 andranno RC auto, prestiti, rate mutue e tutto il resto, un risparmio di 108 diciamo, euro per mettere un po' a posto qualche situazione, e ci saranno 176 euro per regali e spese di natalizia. Questo è calcolato nel budget di un lavoratore. 176 euro per i regali, e quindi insomma, se abbiamo molte persone da accontentare, sì, quest'anno sì, regali mignon per tutti. Però insomma, anche questo è un commento che va fatto: si possono tranquillamente tagliare i regali di Natale, sì, non è un obbligo, sì, farli, naturalmente prendiamoci anche questa responsabilità. Accontentiamo i bambini nella maniera migliore possibile, se ce la facciamo. Per tutti gli altri, con gli amici e i familiari, sicuramente questa è una spesa che si può tagliare tranquillamente. Magari facciamo un bel pranzo insieme, stiamo insieme, che forse è meglio. Prima di sentire Enrico Cinotti, sì, lo so che sono delle banalità quelle che sto dicendo. Ah no, pensavo Roberto che stavo col tecnico che stava battendo le mani. Però quest'anno credo che molte famiglie, poi volente o nolente, saranno orientate a fare scelte di questo tipo. Prima di sentire Enrico Cinotti e il nostro Andrea Polo, che è qui in studio con me, io vorrei comunque cominciare subito a sentire i messaggi dei nostri ascoltatori e i loro commenti all'800 24 00 24, per poi riprendere appunto la trasmissione fra qualche minuto. Comincerei con Carlo dalla provincia di Cagliari. Le vostre testimonianze oggi mi interessano particolarmente. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tredicesima quest'anno? E tredicesima quest'anno, tanto credo l'80% va dal mutuo regionale per la prima casa, il 20% il regalo per i bambini, ho tre figli, la moglie ha pazienza, fratelli, amici e parenti hanno pazienza. E quindi insomma abbiamo, come dire, trovato dalle sue parole la conferma alle indicazioni che le associazioni dei consumatori hanno già avuto modo appunto di intercettare. Carlo, grazie, naturalmente con grande anticipo buon Natale, continui a seguirci e non si scoraggi, speriamo che vada meglio l'anno prossimo. Loris da Pordenone invece? Sì, buongiorno a tutti, confermo la tesi di Carlo, mi atterrò pedissequamente alle indicazioni che mi avete dato in regia di non parlare di altro, ma le conseguenze dell'utilizzo della tredicesima, che per quanto mi riguarda è un importo già utilizzato, quindi non so neanche se riuscirò a fare regali per quest'anno. Quindi è già destinato ancora prima di averla presa, Loris. È inevitabile. Ma io dico che, voglio dire, a turno chi si mette al governo fa indagini, però credo abbiano perso il contatto con la realtà e con la gente sul posto, sa? E io credo che sia giunto il momento che chi ci governa venga a vedere come la gente vive realmente, insomma, perché tutti gli economisti che avevano fatto i calcoli, che avevano fatto le ipotesi, hanno sbagliato, ora facciamo le indagini, il paese è in ginocchio, è inutile negarselo, insomma, ecco, però bisogna scendere e verificare, perché stando da Bruxelles o da Roma le cose si vedono, ma qualche volta la lente distorce quella che è la realtà, che è una dura realtà, ahimè. Io penso in particolare alle giovani generazioni. Lo so, Loris, guardi, ci pensiamo davvero tutti quanti. E naturalmente non poteva mancare il messaggio simpatico della giornata, almeno quello che può essere definito in questa maniera fino a questo momento, quello che si è guadagnato fino a questo momento, questo giudizio. Rosciani, non si cruci, ci scrivono ascoltatori, il nostro sommerso farà sì che il Natale reale sia diverso da quello che prospettate, e lo so, e noi la vorremmo combattere questa evasione, e non siamo molto contenti che comunque questa contribuisca a rendere più sereno il Natale delle famiglie. Detto questo, c'è un altro aspetto che potrebbe contribuire a rendere più serene le vacanze, le ferie e il periodo natalizio appunto per molte famiglie, che se non vogliono rinunciare a mantenere intatti i loro consumi natalizi, quelli ai quali sono abituati, ma magari la loro condizione reddituale è cambiata, e se non vogliono rinunciare alla, come dire, settimana bianca, addirittura ci sono molte famiglie che chiedono un prestito pur di non rinunciare. Andrea Polo, interpellando un campione di 1.000 aderenti alla vostra comunità, peraltro quella di prestiti www.rai.it, avete rilevato delle indicazioni molto interessanti. Il 34% delle famiglie italiane ricorrerà ad un prestito per affrontare tutte le spese legate al Natale. Quali esattamente? Fondamentalmente sono tre le macro tipologie, quelle che sono emerse. La prima, la più importante, è proprio quella dei regali di Natale. Quindi all'interno di questo 34%, il 61% del campione, appunto, come ha detto, più di 1000 persone che in qualche maniera si sono interessate al credito al consumo nell'ultimo anno, richiederà o ha intenzione di richiedere un prestito proprio per comprare i regali di Natale. Il 30% invece rientra esattamente nell'esempio che facevi tu prima, quindi ricorreranno a un prestito per poter fare la settimana bianca. Un campione, una parte ridotta invece del campione, poco meno del 10%, lo farà per qualcosa che effettivamente probabilmente si potrebbe fare in maniera diversa, che è quella comunque di regalarsi un capodanno speciale, un cenone da ricordare o comunque una notte di San Silvestro che rimanga nella loro memoria. Anche perché oltre al non rinunciare a qualcosa, soprattutto nel caso in cui si tratti di acquisti di regali o quant'altro, si tratta anche di una razionalizzazione del momento in cui la spesa viene fatta. Il credito al consumo è qualcosa che negli altri stati è molto più diffuso, in Italia si sta diffondendo e soprattutto lo si sta conoscendo meglio nell'ultimo periodo, per cui al di là di quelle che possono essere i prestiti richiesti per Natale, comunque ricorrere ad un prestito attraverso chiaramente delle persone, degli istituti che lo erogano in maniera precisa e certificata, permette anche di dilazionare in qualche maniera le spese a cui ogni famiglia, ogni persona si trova. Comunque poi magari queste raccomandazioni le faremo con Francesco Avallone di Federconsumatori, se proprio non avete necessità, se proprio, come dire, il prestito lo volete chiedere per così per le spese voluttuarie, perché volete accontentare tutti quanti con i regali, io vi invito ad una riflessione in merito. Poi ognuno fa quello che vuole, naturalmente, poi però queste scadenze vanno rispettate, per cui il televisore al plasma che costa un po', farlo con il credito al consumo, magari rinviatela questa spesa. Se ritenete che magari nei prossimi mesi potranno arrivare altri momenti di difficoltà e potranno essere altre le scadenze, ricordatevi che ritorna l'ICI probabilmente, se avete la prima casa ci sarà una scadenza aggiuntiva l'anno prossimo, l'IVA aumenterà ulteriormente, questa ricadrà su tutti quanti i prezzi, l'inflazione tornerà ad aumentare, questo governo necessariamente ci chiederà altri sacrifici più avanti, per cui non so, un invito alla riflessione, poi ognuno a casa sua naturalmente come sempre fa quello che vuole. Enrico Cinotti, non mi sono dimenticata di te, ti faccio sentire un ascoltatore perché mi dà l'assist perfetto per raccontare anche della vostra inchiesta che pubblicate domani, ed è dunque, l'avevo trovato, Luigi da Lecce. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io dicevo, il mio regalo di Natale sarà la disattivazione della linea telefonica. Prima cosa, perché obiettivamente con l'IVA al 21%, telefono, acqua, gas e compagnia. La rete fissa, diciamo, sì, quella effettivamente è diventata una cosa che avendo ormai tutti quanti i cellulari. Ormai andiamo a fare quella disattivazione, quella sarà il regalo di Natale. Poi per quanto concerne la mia dodicesima, sicuramente andrò a pagare le 300 euro che ho spalmato in tre rate all'Enel, cioè alla dire la bolletta di ottobre, perché purtroppo, povero me, non avevo la possibilità di poter pagare quella bolletta. Poi ci sarà il pagamento dell'ICI di dicembre e poi vedremo un pochettino, perché logicamente c'è da pagare pure la spazzatura e tante altre cose. Io però, per quanto concerne questo discorso, sono un po' rammaricato, nel senso che se nel 30 di aprile di quest'anno sono state accatastate 20 milioni di case abusive, perché non si va a chiedere la cassa dell'IVA evasa per la realizzazione di quell'immobile? Sono problemi un po' troppo alti per noi, Luigi, noi ci rimettiamo ad osservare le condizioni delle famiglie, però stamattina raccogliamo volentieri anche tutte le vostre perplessità a 360 gradi su altre cose e comunque prendiamo anche, Luigi, con così ho sentito anche con grande maturità le scelte che lei farà a Natale per poterlo passare in maniera più serena, e un taglio drastico alla rete fissa di telefonia e a colmare appunto le bollette della luce con le quali appunto era rimasto indietro. Enrico Cinotti, diamoci un taglio, guida al risparmio. Hai sentito i nostri ascoltatori? Interverranno proprio su quelle spese fisse. Voglio dire, il telefono fisso a casa ce l'abbiamo quasi tutti, forse ci rinunciano un po' le giovani generazioni, ma a casa delle nostre mamme, dei nostri zii, il telefono fisso ancora c'è, anche se sembra quasi una cosa che sta andando a tramontare come utilità. Secondo te saranno molte le famiglie che faranno scelte di questo tipo, adesso a prescindere dalla tua inchiesta che mi racconti, ma qual è la sensazione che anche dalle vostre indagini hai raccolto? Guarda Deborah, ti do un dato che è stato diffuso ieri da Telecom Italia, per cui insomma è molto, come dire, è indicativo. Per la prima volta in Italia dopo anni sono in calo le attivazioni di linea fissa, ma soprattutto le attivazioni ADSL. Perché, se vogliamo, tanto da un lato tecnologico esistono, come dire, insomma, surrogati o comunque alternative più economiche, pensiamo ad esempio alle chiavette, ma dall'altro lato i contratti di telefonia, che tra virgolette fisse, ci impongono tutta una serie di canoni e non da ultimo anche il discorso, diciamo così, dell'inasprimento IVA possibile, che inevitabilmente il peso della bolletta subisce, certo. Sale. Quindi insomma quella è sicuramente una, come dire, spesa comprimibile, cioè comunque possiamo rinunciare a quel tipo di servizio utilizzandone un altro. Diverso è invece quando noi parliamo di bollette di luce, di acqua e di gas. In questo caso, se è vero che l'80% delle nostre prossime, diciamo, tredicesime verranno tra virgolette sequestrate per pagare spese obbligate, noi ci siamo messi nei panni di un utente medio e con questa guida abbiamo offerto ai nostri lettori la possibilità di scegliere le varie offerte che sono presenti sul mercato, prendendo dei profili tipo e medi e ragionando su quella che è la spesa di partenza e le offerte migliori che possono spuntare. Benissimo, poi ci dai anche il vademecum per trovarle le offerte migliori, ci sono tanti preventivatori, tanti comparatori di offerte. Ci ricordi, Enrico, così chi volesse leggere la vostra inchiesta, come possiamo trovare il salvagente, dove e come? Sì, il salvagente è in edicola ogni giovedì ormai da 20 anni, possiamo se no direttamente anche acquistarlo in PDF www.ilsalvagente.it e da domani appunto gratuitamente regaliamo questa guida che appunto si chiama Diamoci un taglio, come risparmiare sulle spese, diciamo così, domestiche. E condividiamo in copertina un bel porcellino peraltro, esattamente come Salva Danaio. Speriamo allora, di non romperlo. No, guarda, ci siamo già rotti tante altre cose, Enrico, ultimamente a furia di parlare di questa crisi, veramente che ce ne abbiamo le scatole piene e chissà ancora quanto ne dovremo parlare. Andrea Polo, prestiti.it, peraltro tra le altre cose che emergono dalla vostra indagine invece sembra che molte persone abbiano già dei prestiti in corso e non hanno nessuna intenzione di fare altri finanziamenti, appunto, pur magari avendone la necessità. Sì, è vero, è esattamente quello che alla fine veniva fuori anche dalle telefonate di Carlo, di Luigi e degli altri ascoltatori. È proprio così, chi non chiederà un prestito rappresenta comunque la maggior parte del campione, chiaramente il 66%, ma è curioso notare che il 34% di questi lo farà più che altro semplicemente perché ha già degli altri prestiti in corso ai quali non vuole aggiungerne uno nuovo per qualcosa che alla fine è ritenuto un elemento voluttuario. Certo. Allora, ancora qualche ascoltatore, poi volevo leggere sì questo SMS che mi ha segnalato anche il nostro Marco, avendo un secondo lavoro per cui sacrifico tutti i weekend, è necessario ad arrivare a fine mese ed essendo in regola con tutti e due, aspetta che mi sfuggi il messaggio, sono uno di quei fessi che paga tutte le tasse per tassisti e gioiellieri, quindi rate ad Equitalia perché non riuscivo a pagare tutto, alla piccola già comprati dei regali da mesi per risparmiare, alla grande, quindi probabilmente sta parlando delle figlie, una mancia tra me e mia moglie, una carezza. E noi mandiamo un saluto ad Egidio da Padova che ha fatto questa scelta. Sentiamo un po' altri ascoltatori. Mario dalla Spezia, allora quest'anno regali per tutti o per nessuno? Ma per nessuno, diciamo, perché nella nostra cerchia familiare e di amici possiamo contare circa tra tutti 40-50 persone. Abbiamo deciso di non fare nessun regalo reciproco. E ci vedremo sicuramente a pranzo oppure per giocare a Risico o a qualche altro gioco di società, ma non spenderemo una lira per un regalo. Ecco Mario, però a parte il fatto, la puntata non è su che regali farete a Natale, ma utilizzerete la tredicesima. Infatti, la conseguenza del risparmio sarà che i soldi verranno accantonati proprio per risparmiare, cioè per mettere da parte una riserva che verrà utilizzata in parte per le tasse universitarie delle figlie, per le spese agli studi, in parte se ci avanzerà qualcosa sotto forma proprio di risparmio come riserva economica. credo che sia la cosa più corretta da fare in questo momento, nel quale la situazione è veramente... diciamo è molto difficile. No, tra l'altro Mario, io la ringrazio, io vorrei sto cercando di raccogliere più testimonianze possibili questa mattina, perché io mi rendo conto che se ognuno guarda a casa propria, magari fare delle rinunce diventa molto frustrante, no? È molto triste. Quando invece impariamo che il mal comune è mezzo gaudio e che in molti quest'anno sono chiamati ad assunzioni di responsabilità nel bilancio familiare, allora forse diventa tutto un po' più leggero. Andrea, che ne pensi? Che è verissimo, eh? È verissimo. E sovente anche una questione culturale, per cui parlavo oggi con un'altra persona e si commentava sul fatto che quando eravamo piccoli noi si parlava del regalo di Babbo Natale, oggi i bambini sono abituati ai regali di Babbo Natale, che è plurale, alla fine ne hanno veramente così voglia loro stessi di riceverne tanti, per cui spesso e volentieri è più una questione di cambiare habitus mentale che altro. Eccoci di nuovo a Salvadanaio, un Salvadanaio che questa mattina naturalmente legge con grande attenzione tutti i messaggi e tutte le segnalazioni che ci state mandando. Marco ci scrive a salvadanaio@radio24.it: io metterò da parte la tredicesima per riuscire a pagare le assicurazioni di auto e scooter, perché lavorando solo io con mutuo e spese varie non riesco a metter via i soldi per le assicurazioni, quindi cara grazia che la tredicesima arrivi. Francesco Avallone, vicepresidente di Federconsumatori, ormai appunto ci confermano anche le testimonianze degli ascoltatori quanto voi indicavate: le tredicesime serviranno a coprire le spese ordinarie, quelle che dovremo coprire durante l'anno, e magari se per qualcuna ci siamo riusciti, l'abbiamo fatta arrivare la scadenza a dicembre, l'abbiamo fatta accadere a dicembre, come per le assicurazioni o magari per la rata del mutuo se questo è semestrale. Che cosa ne pensa delle famiglie che si indebitano per fare i regali di Natale? Sì, uno degli strumenti più pericolosi sono le carte revolving, che sono le più utili per fare operazioni di acquisto nei grandi magazzini, operazioni di acquisto nei centri commerciali. Ecco, lì bisogna stare molto attenti perché i tassi di interesse sono senza controllo. Sì, devo dire che avevano un gran successo qualche anno fa quando... però nei momenti in cui c'è difficoltà ad andare alla finanziaria, chiedere il prestito, portare documentazione e altro, insomma questi strumenti un po' più veloci vengono utilizzati. Volevo dire una cosa a volo: stiamo attenti con le telefonate, perché non è si toglie la linea fissa e si è risolto il problema, no, bisogna stare attenti, le telefonate fisso o cellulare sono abbastanza trasparenti, ma da fisso a cellulare, da cellulare a fisso bisogna stare molto attenti, se hanno delle bruttissime sorprese. Bisogna stare molto attenti. C'è stata la grande bollette che sono saltate. La battaglia sulle tariffe di terminazione l'abbiamo affrontata anche qua a Salvadanaio, a Vallone. No, vabbè, possono sembrare, lo ribadisco ancora, suggerimenti banali, però in realtà qualche volta non ci si pensa. Immaginiamo appunto di eliminando lo strumento, di eliminare anche il problema, invece magari utilizzandolo un po' meglio si possono già portare a casa dei risparmi. Bisogna assolutamente utilizzare bene. Soprattutto per esempio anche in questi periodi investire sul risparmio energetico è sacrosanto, è una cosa benefica, perché pone per il futuro delle situazioni molto molto vantaggiose. Allora, se c'è qualche soldo da spendere, bene cercare di utilizzarli per migliorare il risparmio, tutto l'impianto di risparmio energetico che si ha in casa. Infatti, allora sì, vero anche questo. Sentiamo Salvatore da Varese. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Lei parlava prima di cambiamento del sessore reddituale, no? Sì. Ecco, io mi riferisco, come nel mio caso, a una giovane coppia con un mutuo dove arriva un bambino, che penso che sia l'evento più bello che possa capitare nella vita. Però questo comporta delle spese. Da gennaio 630 euro di asilo nido. Allora io ho pensato, quei soldi che mettiamo da parte di mia moglie per la tredicesima, di investirli non tanto per pagare la rata del mutuo, quanto per abbattere il mutuo fisso, che al 5% vuol dire tenere da parte un po' di liquidità per poi far fronte alle spese. Certo, beh, ognuno si fa i calcoli in casa propria. Salvatore ha ragione, tra l'altro il mutuo ha anche un impatto emotivo nella dinamica familiare molto importante. Io lo dico sempre che se potessi adesso, poi non è che ho tutto questo mutuo, però io me lo leverei molto tranquillamente, so che tante volte sono impopolare, però lo farei molto volentieri, per cui io, Salvatore, sposo la sua scelta e la condivido pienamente. Peraltro Enrico Cinotti, il salvagente, molti ascoltatori ci chiedono ancora qualche dettaglio in più per trovare la vostra guida in edicola. Voi vi occupate anche delle spese per il bebè, se non ho letto male. Noi diciamo, abbiamo raccolto tutte quelle che sono le potenzialità di comparazione che vengono offerte da internet, ma anche tutte quelle che sono le intelligenze diffuse e prestate alla causa del risparmio. Mi spiego meglio. La possibilità di attivare ad esempio un gruppo d'acquisto per acquistare pannolini o latte per prima infanzia è una realtà sempre più diffusa che come dire, anche a livello aziendale, cioè singole aziende, singoli colleghi o anche a livello condominiale si stanno diffondendo. Ci sono anche dei gruppi d'acquisto molto consolidati in città principali come Roma e Milano, dove effettivamente la possibilità di acquistare la scorta, diciamo così, dei pannolini piuttosto che i brick del latte possono, come dire, insomma, alla fine spuntare dei prezzi molto, molto convenienti. Noi abbiamo fatto, diciamo, una comparazione tra quelli che sono i principali gruppi d'acquisto e diciamo i negozi tradizionali, supermercati o farmacia per questa tipologia di prodotto, e diciamo l'interesse, cioè l'elemento fondamentale è che in una fase complicata di crisi come quella che stiamo attraversando in Italia non manca però quel genio italico di organizzarsi e di prendere il contropiede questa fase. E questo è importante, insomma, anche valorizzando, come dire, le forme anche un po' di tra virgolette, di auto-organizzazione per combattere la crisi. Sì, sì, infatti, si può prendere a pretesto, insomma, questa situazione per fare una bella riunione familiare a dicembre e fare un punto su tutto l'extra che c'è, adesso a prescindere dai regali di Natale, e dare una sforbiciata qua e là per capire, però, insomma, a parte il fatto che stiamo parlando di questa situazione da almeno 2 anni, quindi chissà quante sforbiciate già le famiglie hanno fatto, mi rendo conto che magari saranno arrivate in tante anche all'osso. Volevo salutare con affetto un'altra ascoltatrice, Viviana, che ci scrive: ero una donna sana in carriera, da 4 anni ho la sclerosi multipla, vivo con 500 euro al mese, ricordo a chi fa finanziamenti per Natale che la vita può cambiare in 10 secondi, tenetevi i soldi, quindi abbiate un uso più morigerato anche di queste risorse, insomma, se non è necessario magari non farlo. Viviana, l'abbracciamo con affetto. Se ce la facciamo, un altro paio di ascoltatori. Marco dalla provincia di Ancona, perché è giovanissimo, voglio proprio sentirlo come pensa di organizzarsi nel Natale che arriva. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, sono uno degli ascoltatori, io ho 23 anni, vivo nella provincia di Ancona, sono un ascoltatore di quelle le categorie giovani e cerco di sbarcare anch'io, di sopravvivere, vivo in affitto. E la lavora Marco, sarà... Sì, io lavoro, sono uno di quei giovani fortunati che hanno un contratto a tempo indeterminato, una paga modesta, però riesco a sopravvivere, e ho un affitto da pagare, non ho preso la decisione del mutuo perché fortunatamente... Vabbè Marco, 23 anni infatti. Un affitto. E ho una compagna e un figlio che è arrivato da poco. Però, allora la tredicesima... Diciamo che, la tredicesima va tutta a risparmio, cerco di pagare le bollette, tra bollette e affitto partono quegli 800 euro e il resto cerco di mettere tutto in cassaforte ben vincolato. Benissimo Marco, in bocca al lupo anche a lei, così giovane, ha già avuto un bambino. Beh Andrea, come te, pure tu ce li hai, sono grandicelli ormai tuoi, non hai 23 anni, questo dobbiamo dire, però no, mi interessava ancora magari solamente 2 dettagli sulla indagine, sto chiudendo la trasmissione peraltro, di prestiti.it, per capire anche che cifre mediamente gli italiani chiederanno per affrontare le spese natalizie. Richiederanno anche tanto, perché più della metà di chi richiederà è disposto a richiedere più di 2000 euro, quindi veramente, veramente tanto. Questo è una cosa del tipo: se la devo fare la faccio bene, insomma, questo sembra essere il tutto. Tante volte lo fanno anche un po' per consolidare i debiti in corso, come dicevamo prima, magari con 2000 euro chiudono tante bollette, esatto, tante situazioni, e poi diventa un'unica rata. Però le bollette poi ritornano nei prossimi mesi, io non lo so, magari se... Le bollette ritornano, però intanto la cosa... Prima parlavamo dell'habitus mentale, effettivamente è così, molto si sta diffondendo anche il consolidamento, quindi quello di avere un unico collettore per tutti i vari debiti, quindi uniformare le scadenze e quant'altro, e si parlava prima un po' dell'uovo di Colombo. È chiaro che l'uovo di Colombo in questo caso è quello di non fermarsi alla prima offerta che viene fatta, ma chiaramente è quella di confrontarla anche attraverso altri strumenti, ovvio che io faccio un po' Cicero Prodomomea, però internet garantisce anche il tempo necessario per non essere nella situazione che diceva giustamente Vallone prima, di trovarsi a presentare di persona dei documenti. Grazie, grazie ad Andrea Polo, ad Enrico Cinotti del Salvagente e a tutti gli ascoltatori oggi in tantissimi che ci hanno scritto, a Francesco Avallone di Federconsumatori. Magari ci ritorniamo a ridosso del Natale su questo argomento per ridare qualche buona notizia, però insomma l'abbiamo capito, sarà un Natale un po' più modesto degli ultimi anni. Grazie a tutti, da Deborah Rosciani, buona giornata.